Buongiorno. Il programma prevede di parlare di lettere, di riconoscimento del sesso, di resurrezione e infine di titoli al passo coi tempi.